Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses ne m'aimerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas fière de ça. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume. Buonasera, ben ritrovati sui 102.2 di Radio Sandonà in compagnia di una nuova puntata di Overbooking. Questa sera andiamo a occuparci del libro di Alberto Tosofei, I segreti del Canal Grande. Alberto Tosofei, uno scrittore giovane, una nuova leva veneziana, si è occupato in più riprese di storie e, diciamo, curiosità legate alla città di Venezia. Lo fa ulteriormente con I segreti del Canal Grande, che è un libro godibilissimo, in cui allo scritto si antepone la fotografia curata da Giovanni Canton e ne esce un risultato veramente pregevole, in cui Alberto Tosofei esplora un po' quello che avviene attorno al Canal Grande, alle due rive del Canal Grande, occupandosi in qualche maniera in maniera certosina dei singoli palazzi e raccontando un po' quella che è una storia che anche per un non solo per un viaggiatore casuale, ma anche per chi per lavoro, per studio o quant'altro deve andare a Venezia tutti i giorni, tutto questo rimane assolutamente ignoto. Quindi a me capita nei primi 25-28 anni della mia vita di andare a Venezia praticamente tutti i giorni e non sapere quasi niente di quello che c'è nel libro di Alberto Tosofei. Un libro dal mio punto di vista illuminante. Vi anticipo già che nel corso della trasmissione avremo Alberto in linea con noi, che ci darà una qualche notizia in più su come ha raccolto il materiale e come ha concepito quest'opera. Alberto, che di recente ha presentato il suo libro I segreti del Canal Grande presso il comune di Jesolo in una serata che è stata, posso dire, un successone. Bene, prima di continuare andiamo subito a ricordarvi che questa puntata, come tutte le precedenti della nostra, diciamo, trasmissione può essere scaricata o ascoltata dal sito www.bloverbooking.wordpress.com. Avete comunque e sempre la possibilità di intervenire in trasmissione telefonando allo 0421 560993 oppure mandandoci una mail a radio@radiosandona.it. Una lancia spezzata a favore del nuovo sito di Radio Sandona, www.radiosandona, dove troverete tutto ciò che ruota intorno alla radio, quindi non solo a questo programma, ma tutta la programmazione e le iniziative che coinvolgono RSD 102.2. Bene, prima di continuare andando a parlare di I segreti del Canal Grande di Alberto Tosofei, andiamo a sentirci un intermezzo musicale. Un grand sac mystérieux. Un mec un jour dans un train trimballait un grand sac mystérieux. Il avait au fond du sac des objets qu'il devait transporter ou cacher. Sur ses mains sont des traces de sang ou simplement la marque de ses gants. Le sac est lourd mais il est fort. Le train s'en va, lui il s'endort. Défilent alors danser de grands yeux fermés des paysages, des cauchemars et des regrets. RSD, ben ritrovati su Overbooking. Stiamo parlando questa sera di I segreti del Canal Grande, scritto da Alberto Tosofei e edito per Studio LT2. Dovremmo avere in linea Alberto, se il telefono e Meucci ci sostengono. Ci sei, Alberto? Sì, per il momento sì, siamo sostenuti. Oh, buonasera, siamo molto bene. Buonasera ai radioascoltatori. Grazie per essere con noi innanzitutto e come prima domanda volevo chiederti un po' come nasce l'idea di quest'opera. Allora, nasce da lontano, nel senso che nasce da un percorso quasi ventennale che io faccio con gli altri miei libri e che fa un salto ancora indietro alla mia infanzia, nel senso che io sono veneziano di Murano e quando ero bambino ero abituatissimo a sentirmi raccontare le storie dagli anziani. Poi queste storie, come dire, nessuno le raccontava più, correvano il rischio di andare perdute e in età universitaria mi è venuta la voglia di ritrascriverle e di associare, e questa è stata la scommessa vera, ad ogni storia un luogo. E sono nati così alcuni libri, il primo è stato Leggende veneziane e storie di fantasmi, seguito da Venezia Enigma, Misteri della Laguna e Racconti di streghe, che tutti hanno questa natura di ritorno delle storie ai luoghi. Per i segreti del Canal Grande ho fatto in qualche modo il lavoro contrario, se vogliamo, nel senso che ho scelto un luogo della città, in questo caso l'intero Canal Grande, e a quel punto mi sono messo a caccia di storie, trovando insomma un sacco di belle storie, aneddoti, curiosità, leggende, misteri, qualche storia di fantasmi. Benissimo, poi il libro, per chi non l'avesse ancora visto, si articola in due, diciamo, in due parti ben definite, ossia il libro si può iniziare da uno dei due lati del canale in qualche modo. Sì, il libro ha due copertine e quindi è rovesciabile, una specie di libro a double face, per cui uno segue una prima metà del libro seguendo una delle due sponde del Canal Grande a scelta e poi quando l'ha seguita gira il libro e ricomincia dall'altra parte in una storia come di una specie di dimensione infinita e di rimando delle storie che poi è quella proprio veneziana. Io lo ricordo, il Canal Grande non è un fiume che ha quindi la riva destra e la riva sinistra. Le sue acque corrono nei due sensi per sei ore in un senso e per sei ore nell'altro e quindi le due rive hanno due nomi particolari che sono De Citra, che è la stessa riva che insiste sul lato di San Marco, e De Ultra, che è quella dall'altra parte. In effetti, proprio volendo tradurre un po' dal latinorum, De Qua e De A. Proprio esatto. Molto banalmente. E poi anche ci sono storie di vita assolutamente diverse da un lato e dall'altro, nel senso che anche le persone che vivono da una parte del Canal Grande sono i Castellani, dall'altra abbiamo i Nicolotti, quindi sono due realtà che nell'immaginario di Venezia erano comunque molto distinte. Le due grandi comunità appunto storiche veneziane che poi si combattevano tra di loro, no, tradizionalmente nel corso dell'anno, nelle guerre dei pugni. Io poi lo ricordo, il Canal Grande separa Venezia tenendo tre sestieri per parte e è un po' una cesura, ma è anche, come dire, un tratto d'unione tra la terraferma e il mare, no? Una specie di strano cordone ombelicale. Ma è soprattutto il luogo, se già a Venezia per definizione, dico, qualsiasi persona minimamente conosciuta nel mondo prima o poi ci ha messo piede, non può non essersi affacciata almeno una volta da una delle finestre dei palazzi del Canal Grande. Ed ecco che il libro è una teoria infinita di storie e di diverse epoche, per cui è un viaggio, no? in diverse dimensioni, e andiamo proprio a trovare nelle cortigiane più belle i poeti più acclamati, i politici più astuti, gli ospiti più prestigiosi, ecco, perché di questo poi, ecco, si è composta la storia del Canal Grande. E raccontando le storie del Canal Grande e di chi ci è vissuto e di chi lo ha visitato, è possibile raccontare la storia della Serenissima. Ecco, e una cosa che ci colpisce nella lettura di questo I Segreti del Canal Grande è proprio la ricchezza delle fonti. Tu ci dicevi, e anche un po' si capisce, che arriva il libro arriva come, diciamo, culmine di un tuo lavoro di ricerca che ci dicevi essere ventennale. Quali sono le tue fonti? Se sono archivistiche? È storia orale? A cosa ti ispiri, diciamo? È un po' tutto. nel senso che il primo nucleo delle mie ricerche si basava sulla tradizione orale e sul recupero della tradizione orale, e ancora anche in questo libro ci sono tracce di questo recupero. Poi una foltissima ricerca bibliografica e d'archivio, quindi o libri per lo più vecchi, o testi molto specifici dai quali estrarre, no, una singola curiosità, un singolo aspetto un po' ameno, oppure appunto gli archivi a Venezia, il solo archivio di Stato, voglio dire, è una miniera pressoché inesauribile, e in qualche caso anche delle fonti comparative, perché esistono, che ne so, dei frammenti di storia che è possibile ricostruire in quanto comuni a volte, curiosamente, ad altri luoghi d'Italia, ad altri luoghi d'Europa. E poi una cosa che ci piace particolarmente del libro è il fatto che appunto si parte dal contesto veneziano per allargarsi al mondo in qualche modo. È un qualcosa che già ci anticipavi prima, ossia all'interno del libro, per chi non l'avesse ancora letto, si trovano degli spunti interessantissimi in cui partendo da un palazzo si arriva, non lo so, alla storia della cipria, e questo poi verrà approfondito nel corso del programma, o alla storia del baccalà. Sì, in effetti, appunto come vi accennavo, si parte da uno stimolo, ecco, che arriva da un personaggio che è vissuto, da un elemento, a volte un elemento architettonico, ecco, e da quel momento in poi si parte per un ulteriore viaggio nel viaggio, perché appunto le storie poi ne richiamano delle altre, e tirandosi come perle, no, in una bellissima collana, alla fine permettono di confezionare un piccolo gioiello. Poi un'altra cosa molto bella è il contributo fotografico. Come nasce la tua collaborazione con Giovanni Canton, che poi, allora, ha curato la fotografia? A me piace associare le parole alle immagini, però non in forma didascalica, e anche in questo caso le immagini che accompagnano i testi non sono esemplificative di quella storia o di quel palazzo, sono visioni artistiche che riguardano ovviamente, questo sì, i luoghi delle storie, ma sono un linguaggio parallelo, ecco. Io e Gianni Canton siamo andati in giro una barchetta una mattina molto presto, e io gli ho indicato i palazzi, come dire, maggiori protagonisti, ecco, all'interno del libro, e poi l'ho lasciato libero di interpretare quello che desiderava. Le immagini sono in bianco e nero, perché insomma, a me, per questa è una mia impressione, insomma, la suggestione, ecco, che trasmettono è maggiore, sì, e devo dire, insomma, dal mio punto di vista non ci stanno per niente male. No, anzi arricchiscono e danno ulteriore valore, se ne servisse ancora, al libro, che è veramente molto interessante. Adesso anche noi vorremmo avere una barchetta, o se possiamo prendere il vaporetto 2, credo sia ancora il 2, e farci il Canal Grande andata e ritorno, io lo considero dalla stazione di treni, ma comunque in qualche modo, e vedere un po' in maniera un po' più diciamo erudita quello che ci raccontavi. Io consiglio invece l'1, perché è molto più lento e permette una riflessione maggiore, ma sono d'accordo per l'andata e ritorno, ma provate a farlo da Piazzale Roma, perché potresti avere delle sorprese già al momento addirittura di scendere dal Ponte della Libertà all'altezza della Questura. Ah, quindi l'1 e... Grazie, ecco, vedi, questo è non essere veneziano. non c'è il vero tipo veneziano è chi ama Venezia. Beh, allora in quel caso penso di farne parte. Adesso ti faccio conoscere il mio coautore, che è qui presente, che si chiama Matteo, e anche lui credo possa essere definito un amante di Venezia. Certo. Innanzitutto, Alberto. Ciao Matteo. Allora, volevo solo farti una domanda, perché appunto io uso ogni giorno il vaporetto per recarmi al lavoro, perché io lavoro presso il comune di Venezia, e quindi ogni giorno salendo sul vaporetto, un giorno guardavo da una parte e un giorno guardavo dall'altra mentre facevo il viaggio, e mi chiedevo spesso cosa si nascondesse dietro la storia di tutti quei palazzi che passavano davanti al mio sguardo. E scoprire il tuo libro per me è stata una vera rivelazione, perché appunto adesso potrò guardare con occhi molto più consapevoli quello che si parla davanti a me. Per fare solo un esempio, io passavo sempre davanti a questo palazzo dove c'era scritta Non a Nobis, e io mi sono sempre chiesto cosa significasse, e finalmente sul tuo libro ho trovato la risposta, che è legata al mistero dei Templari. Tu cosa ne pensi? Ma intanto mi fa piacere, voglio dire, che di essere stato in qualche modo protagonista di questa tua scoperta, ecco, della città. E in effetti è così, ogni facciata nasconde storie, a volte in qualche modo più esplicite, come nel caso di Kavendramin Kalergi, che è quello che hai citato tu, o nel caso di Cadario, che è un'altra scritta molto particolare, e in altri casi palazzetti anonimi che forse magari non vengono nemmeno catturati dal nostro sguardo, nascondono invece vicende straordinarie. Venezia è così, diciamo che il Canal Grande è la sua vetrina più evidente, no? È la strada più bella del mondo, così la definì il primo ambasciatore francese in città nel corso del Cinquecento, Philippe de Comines. Però a parte il Canal Grande, ecco, anche il resto della città veramente nasconde dietro ogni angolo, dietro ogni porta, dietro ogni graffio sul muro, una storia straordinaria. Posso chiederti una domanda di ordine più generale su quello che tu speri, auspichi e vedi per il futuro di Venezia? Perché è un dibattito che è sempre all'ordine del giorno. Turismo contro spopolamento, eccetera, eccetera. Cosa ne pensi? È una domanda difficilissima in realtà. Penso che siamo di fronte a delle sfide enormi e vitali per la città, e che queste vadano governate, ecco. 22 milioni di persone, che sono quelle che attualmente si recano nel corso di un anno solare, ecco, a Venezia, sono un numero che ovviamente da un lato non può essere ignorato, e che dall'altro va governato, e va governato presto, nel senso che, come dire, ne vanno governati i flussi, ma va anche fatto un lavoro perché tutto il tessuto della città, che è fragilissimo, non venga votato solo a questa monocultura, ecco. È una sfida enorme, e credo che per primi i veneziani dovrebbero assumerla senza delegare troppo alle varie amministrazioni, che ci mancherebbe, sono tenute a fare fino in fondo la loro parte. Però se i veneziani per primi non sono disposti ad amare la loro città e a sacrificare, ecco, qualcosina di quello che potrebbero ottenere in favore, ecco, della sua salvaguardia, allora la città è perduta, ecco, se questo non avviene. E quindi, beh, speriamo che nel tempo i cittadini prima di tutto, ma io spero anche più in generale nella comunità vasta, ossia nella comunità nazionale, ma anche nell'Europa e nel mondo in qualche modo, ci permettano di far sopravvivere e far prosperare quello che è, credo, una delle cose per cui il nostro mondo va ricordato, a mio modo di vedere. No, speriamolo, nel senso che io poi confido molto più quasi all'estero, ecco, che non all'interno nostro. Benissimo, ti ringrazio per essere stato con noi, sei stato gentilissimo, e un'ultima domanda velocissima: ci sono progetti in cantiere? C'è un qualche libro in cui ti occupi, ad esempio, del quartiere in cui lavoro io, che è Santa Marta? Allora, non in maniera così specifica, ho ovviamente più progetti sul tavolo, adesso vediamo cosa riuscirò a chiudere prima, c'era qualcosa per i bambini, qualcosa di nuovo per gli adulti, forse non solo Venezia, insomma, abbiamo più cantieri aperti, vediamo cosa chiudere per primo. Okay. E sono io che ringrazio voi per questa deliziosa ospitalità, e chiaramente nell'augurarvi buona serata la auguro anche a chi ci sta ascoltando. Grazie mille, grazie ancora per essere stato con noi, e a risentirci. A presto. Ringraziamo ancora una volta Alberto Tosofei per essere stato con noi durante questa puntata di Overbooking e per averci presentato la sua fatica letteraria che, vi ricordo, si occupa della storia di Venezia attraverso i suoi palazzi e in particolare i palazzi che danno sul Canal Grande. È stato un buon momento anche per aprire una parentesi che secondo me libri come questo generano, ossia una parentesi che riguarda quello che è il presente e il futuro di Venezia, perché si accavallano quelle che sono le istanze di un presente e le esigenze di un presente legate al finanziamento turistico e poi anche a quello che è il mantenimento delle opere architettoniche e culturali di cui Venezia è pervasa, contro delle esigenze abitative di non sempre facile soddisfazione. Quindi da un lato si ha uno spopolamento di quelle che era la popolazione originaria, diciamo, di Venezia, dall'altro le esigenze dei turisti. E di recente vi cito un articolo di Internazionale che mi è capitato di leggere su l'annosa questione del finanziamento dei restauri in Piazza San Marco. Ossia, in Piazza San Marco c'è stato questo grosso problema legato al finanziamento privato che si sponsorizzava tramite la fissione di manifesti pubblicitari che da una parte di veneziani e non venivano giudicati come abbastanza fuori luogo in qualche modo. Per contro c'è un'esigenza strettamente monetaria che è quella di portare a termine il restauro e quindi la scelta di un'immagine pubblicitaria è appunto, trova finalizzazione in questo. Come diceva Alberto, un quesiti non di facile soluzione, si spera che la comunità veneziana e non solo riesca, io penso tramite il dialogo, ad arrivare ad una soluzione. A questo punto, scusate la digressione, torniamo a parlare del libro di Alberto Tosofei e finalmente facciamo entrare abilmente Elisa nel programma. Elisa, che come sempre si occupa delle nostre letture e questa sera ci parla di Cipria. Esattamente, dedicata a Carcorrer Contarini Zorzi, come nacque la Cipria. Tra le sue mura si spense il 7 gennaio 1758 Antonio Correr, l'ultimo fra i patrizi veneziani a rifiutarsi di indossare la parrucca, che giudicava un detestabile oggetto modaiolo, per nulla confacente al decoro che il suo ruolo richiedeva. La parrucca era stata importata in città attorno al 1665 da Vinci Guerra di Collalto. In breve tempo era diventata di gran moda. Nel corso del 700, anzi, proprio grazie alla grande diffusione di toupé, fiorirono in città numerose fabbriche di polvere di Cipro, di cui si faceva gran uso per imbiancare i capelli finti di dame e gentiluomini. La vendevano i muschieri, profumieri, che dipendevano dall'arte dei merciai. Ancora oggi, nelle vicinanze di Piazza San Marco, si trovano sotto Portego e Corte Nuova della Polvere, nome che deriva dal fatto che nella seconda metà del Settecento in questo luogo si trovava una fabbrica di polvere di Cipro tenuta da Bortolo Lucadello, il cui figlio Giambattista ottenne un privilegio dal magistrato alla sanità nel 1763. Oggi le parrucche biancate ovviamente non si usano più, ma la polvere di Ciprio sì. Solo che invece che sulla sommità del capo si applica sul viso, poiché è diventata Cipria, appunto. Quanto a Ca Correr Contarini Zorzi, è detta anche Ca dei Cuori, per la forma degli stemmi in ferro battuto che compaiono sui due portali. È un palazzo di origine gotica ristrutturato nel XVII secolo. Fra coloro che la possedettero nel corso dell'Ottocento si annoverano il principe borghese di Roma. 102.2 Radio San Donà, ben ritrovati ancora in compagnia di Overbooking e del libro di Alberto Tosofei, I segreti del Canal Grande. Ringraziamo, abbiamo avuto, come si diceva prima, Alberto in trasmissione con noi e purtroppo, come ogni bella cosa, anche questa puntata volge al termine. Ci sentiamo di consigliare a quanti non abbiano avuto modo di prendere visione e di leggere il libro di Alberto Tosofei, ci sentiamo appunto di consigliarlo caldamente per almeno tre motivi. Innanzitutto per il fatto che è un libro estremamente godibile e scorrevole, è un libro istruttivo, nel senso che anche per chi va a Venezia tutti i giorni può essere un utile supporto per capire un po' la realtà che lo circonda. È un libro accessibile e questa è una cosa che mi piace sottolineare, nel senso che unisce varie forme di in qualche modo mappatura del territorio, una mappatura storica facendo riferimento appunto a quelli che sono gli accadimenti legati a determinati palazzi e a una serie di aneddoti che poi, come ci diceva Alberto, si concatenano nel corso del libro, ma anche una mappatura fotografica. E non solo, nel corso delle pagine potete seguire passo dopo passo in qualche modo il cammino di Alberto nel descrivere i palazzi. Perché? Perché in ogni pagina trovate un riferimento in termini di disegno a il singolo palazzo di cui si sta parlando, e quello rende secondo noi il libro più interattivo ed accessibile in qualche modo e lo fa piacere. Poi anche la scelta di dividere il libro in riva destra e riva sinistra è assolutamente interessante. Se poi vi va di approfondire ulteriormente questo argomento, ci sentiamo di consigliarvi anche un libro precedente degli anni 80 di Alvise Zorzi, anche questo sul tema del Canal Grande e sul tema degli edifici che appunto si affacciano sul Canal Grande. Uno stile relativamente diverso, nel senso molto più di carattere in qualche modo saggistico se secondo noi questo libro di Alberto Tosofei rappresenta comunque un modo molto facile e stimolante per approcciarsi all'argomento. Prima di salutarvi vi ricordo che potete sempre scrivere alla nostra redazione tramite mail radio@radiosandona.it oppure telefonare allo 0421 560993. Altrimenti un'occhiata che magari merita un vostri 5 minuti a www.bloverbooking.wordpress.com. Ringrazio Daniele che mi aiuta in regia, Matteo che mi coordina il programma e mi dà un valido sostegno mentale, e soprattutto Elisa che ci saluta con il secondo ed ultimo estratto del libro di Alberto Tosofei. Ca Querini, Pietro Querini e la scoperta del baccalà. Secondo la tradizione araldica veneziana, i Querini hanno origini antichissime, essendo tra i primi fondatori di Venezia, e già alla fine del 200 la famiglia era considerata una delle 5 più ricche della città. Ma c'è un'altra storia, molto suggestiva, legata ad un membro della famiglia Querini. Pietro, alle cui gesta è legata la scoperta e l'introduzione a Venezia del baccalà, di cui si fa gran uso nella cucina lagunare, così come in terraferma. Tutto avvenne quando la nave da lui comandata, la Gemma Quirina, partita da Creta il 25 aprile 1431, con 68 marinai, carica di vino e spezie diretta verso i mari del nord, fu colta da una tempesta nel canale della Manica e fu trascinata per giorni. L'equipaggio si vide costretto prima a tagliare l'albero e poi, perdute le vele, a imbarcarsi sulle scialuppe. Solo 14 uomini toccarono terra su uno scoglio delle isole Lofoten, un arcipelago norvegese a nord del circolo polare artico. La piccola comunità, 120 persone, che vivevano in una dozzina di case con una grande libertà di costumi, colpì profondamente i veneziani. Lo stesso Querini annotò più tardi: le donne restavano nude e dormivano con gli stranieri quando i mariti andavano a pescare. Quelle genti vivono il matrimonio come sacramento indissolubile e vivono senza alcuna propria lussuria lo stimolo della carne. Rimasero per 101 giorni in quello che doveva sembrare loro il paradiso terrestre, finché la maggioranza decise di fare ritorno a casa. Querini arrivò a Venezia il 12 ottobre 1432. Assieme alla sua relazione, non esitò a presentare al Maggior Consiglio anche lo Stoccafisso, che aveva conosciuto su quelle isole, che da quel momento entrò a far parte della cucina veneziana. My true love, I'm gonna sign my name.